America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. L'America, il mondo finanziario, il mondo politico, soprattutto quello francese, restano elettrizzati dallo scandalo che è esploso sabato nel primo pomeriggio a New York, che ha portato all'arresto sotto accusa di molestie sessuali di Dominique Strauss-Kahn, il direttore del Fondo Monetario Internazionale. Police say they will be charging IMF managing director Dominique Strauss-Kahn with criminal sexual act and attempted rape, among other charges. This comes after a housekeeper said she was attacked at a hotel in Times Square. Strauss-Kahn apparirà in tribunale qui a New York fra un paio d'ore. Le accuse formali saranno portate contro di lui. Ieri sera volontariamente si è sottoposto a un controllo in ospedale del suo corpo per dimostrare che non aveva dei segni di colluttazione. E comunque questa mattina una cosa è certa: davanti alle accuse, a tutti i capi d'accusa, Strauss-Kahn dichiarerà la sua innocenza, not guilty. Le notizie dell'ultimissima ora sono che la polizia newyorkese avrebbe in mano delle prove di DNA, che la cameriera del Sofitel ha riconosciuto Strauss-Kahn. Pensate, è stato messo in un line-up come quello dei criminali comuni. C'era una fila di 4-5 persone. Questa domestica è stata chiamata per identificare la persona che l'aveva aggredita e ha in effetti pescato proprio Strauss-Kahn. So this is not a case where you hope to get an acquittal. This is a case where my job is to keep him from getting arrested. And in this case, I got, with at least a seasoned, good, experienced prosecutor, I got a 50% shot at keeping this case from ever being made. This is a case that I don't think should be made. This is a case that I don't think should end up as a criminal case. E per difendersi Strauss-Kahn ha ingaggiato Benjamin Brofman. Avete ascoltato la voce di questo avvocato, una celebrità specializzato proprio nel difendere persone accusate di stupro. Pensate, è stato il difensore anche di Michael Jackson e di Sean Combs, due celebrità del mondo della musica che si sono trovate in situazioni difficilissime dal punto di vista delle accuse di violenza sessuale. La strategia di Benjamin Brofman è molto chiara: negare. Nella breve dichiarazione che avete sentito afferma Brofman che la sua strategia è quella di non fare neanche arrestare la persona. Ebbene, qui evidentemente è arrivato tardi. Schierati con il direttore del Fondo Monetario Internazionale ci sono già la moglie Anne Sinclair, una giornalista televisiva francese notissima, la quale ha detto: non posso assolutamente credere che questo sia successo, mio marito è innocente. Era un uomo che non aveva altri pensieri se non quelli di portare a buon fine quella che era la sua missione, essere cioè al centro di questo dialogo, di questo negoziato per salvare questi paesi deboli. E questa, devo dire, una considerazione non secondaria, perché sul successo di questa missione Strauss-Kahn si giocava anche la sua carriera politica, la sua credibilità come candidato alternativo a Nicolas Sarkozy per le presidenziali francesi del 2012, e i sondaggi lo davano già in vantaggio. Ci sono sospetti, naturalmente, perché la fama di Strauss-Kahn è quella di un Don Giovanni, ma non di un Don Giovanni aggressivo, ma semmai di un francese galante che riusciva a conquistare le donne. Sentiamolo in un confronto proprio con Sarkozy. L'INSEE existe avant les 10. L'INSEE a contesté ce rapport lui-même. Peu importe, continuez. Alors, baisse des charges. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Je veux dire, excusez-moi, mais continuez. Merci, monsieur le professeur. Sentite la voce decisa di Strauss-Kahn. Questo è un dibattito pre-presidenziale del 2007. Sarkozy è chiaramente in difficoltà, dice: ma insomma, voi volete fare il professore, smettetela di fare il professore. A quel punto, subito, senza perdere un secondo, Strauss-Kahn dice: beh, devo dire che se voi foste il mio allievo, devo dire, non vi darei un bel voto, perché si vede chiaramente che non capite nulla di economia. Ci troviamo davanti a un caso di Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Due personalità completamente diverse, quella del grande funzionario internazionale, possibile presidente francese, e quella invece di un uomo che cede davanti alla libidine. Questo è il mistero che si cercherà di risolvere. Nel frattempo occorre trovare una soluzione per i problemi impellenti dei mercati internazionali, della Grecia, del Portogallo e del Fondo Monetario. I would say they hope the worst is over, but not certain yet. and that's why you still see, you've seen some improvements in European markets, but the spreads are still quite elevated. John Lipsky è il numero due del Fondo Monetario Internazionale, da ieri è diventato Acting Managing Director. Su questo si è fatta un po' di confusione, alcuni titoli anche dei giornali americani di ieri dicevano che il fondo si era riunito per nominare un successore. Ebbene, non è andata così. Lo statuto del Fondo Monetario Internazionale prevede che nel momento in cui il Managing Director, il direttore generale, in questo caso Strauss-Kahn, fosse impedito per qualunque ragione, automaticamente subentra il First Deputy, il numero due, in questo caso John Lipsky. Lipsky è rimasto a Washington, ma al di là delle burocrazie si apre una questione di fondo. Che cosa succederà a questo punto della determinazione del Fondo Monetario Internazionale nel difendere paesi come la Grecia o come il Portogallo, ma soprattutto la Grecia in questo momento, dalle pressioni per una ristrutturazione del debito? Strauss-Kahn era decisamente contrario, aveva organizzato una sorta di cordata, di alleanza per impedire che questo succedesse, aveva ottenuto garanzie dal governo greco. Le persone con cui ho parlato dietro le quinte, persone che lavorano al Fondo Monetario Internazionale, confermano la linea impostata e sottolineano che non è una linea del Managing Director, ma è una linea sottoscritta dal Consiglio. Questa è una istituzione strutturata, ci ha detto questa fonte, è un'organizzazione che andrà avanti con o senza Strauss-Kahn e dunque la linea nei confronti di Grecia e Portogallo resterà invariata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, insomma, Bob Dylan ha deciso di rispondere ai suoi fan preoccupati e ha scritto che nessuna delle sue canzoni è stata censurata durante il suo tour cinese. Ma quando ne abbiamo parlato noi stessi non avevamo detto che le canzoni erano state censurate, ma che forse le scelte Blowing in the Wind e Times Are Changing erano state fatte in sintonia con quel che voleva il governo cinese. Comunque, in onore di questa smentita di Bob Dylan, sentiamo Hurricane. And another man named Bello moving around mysteriously. Stops. One of us had better call up the cops. Enzo Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.